Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16:34, no, la 24 della voce dell'innovazione. Oggi è giovedì, oggi quindi abbiamo con noi Cristina Tagliabue, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Insomma, ci prepariamo al Salone del Libro, raccontiamo un po' di storie che hanno a che fare con questo mondo, proviamo a trovarne il lato innovativo che alle volte si nasconde dietro l'idea, altre volte dietro alle tecnologie. Oggi devo parlare poco. Ma allora provo a parlare io, insomma, un pochino. E lanci le news. Dai, allora proviamo ad ascoltare le news di questa settimana e poi entriamo nel salone. Recensito da Rolling Stones come una sintesi del pop italiano più intimista degli ultimi anni, il concept album I Moralisti esce dopo 2 anni dall'esordio del gruppo. I protagonisti dei I Moralisti sono 10 personaggi reali nati tra il 1950 e il 1980 che si muovono tra personaggi storici, protagonisti di cronaca e archetipi di storie comuni. Un concept album sulla moralità italiana in cui gli Amor Fowl sono capaci di raccontare la storia attraverso le piccole storie. I Moralisti esce il 4 maggio 2010 su etichetta EMI Music. Esce il DVD di Fuga dal Call Center di Federico Rizzo in collaborazione con Officine Ubu, che lancia il primo film italiano accessibile ai non vedenti. Fuga dal Call Center è una commedia precaria che si ispira alle interviste realizzate a veri lavoratori interinali dei call center in molte città italiane. Il film gioca ai toni del grottesco per divertire e commuovere insieme. Luca Jurman, il vocal coach più famoso d'Italia, racconta la sua vita e il grande laboratorio della musica, offrendo un percorso guidato attraverso la tecnica del canto moderno, spiegando il suo metodo rivoluzionario, che trova continue conferme nei recenti successi dei suoi allievi più noti. Il libro svela i segreti per educare lo strumento voce e diventare un bravo cantante grazie alla pratica e alla didattica. La Scuola Holden sarà presente al Salone del Libro di Torino con personal shopper che aiuteranno i partecipanti ad orientarsi nell'acquisto del libro senza perdersi tra stand, espositori, conferenze e incontri con gli autori. I personal shopper si riconoscono dalla maglietta e sono sparsi per il salone. Quarto anno di vita per l'Incubatore, lo spazio del padiglione numero 1 dedicato alle case editrici con meno di 24 mesi di vita e non legate a grandi gruppi editoriali. L'Incubatore è un'occasione di lancio unica per i giovanissimi editori che hanno così l'opportunità di verificare sul campo la validità dei propri prodotti, confrontandosi con gli operatori del settore e il grande pubblico. Quindi quest'anno ci sarai anche tu, o ci sei sempre stata? Ci saremo anche noi. Ci saremo anche noi. Ci saremo tramite la mia presenza al Salone del Libro da giovedì prossimo, okay. No? Che è la data dell'apertura del Salone del Libro. Nel padiglione 1 ci sarà questo incubatore, che in realtà c'è già da 3 anni, mi sembra questo sia il 4° anno, in cui cosa succede? Succede che tutti gli editori nati da massimo 24 mesi sono lì a, come dire, a raccontare la loro storia, a farsi vedere, a farsi notare, a dire ci siamo anche noi, anche se non siamo così grandi come tutti gli altri, però insomma vogliamo che il pubblico parli di noi. D'altronde il Salone del Libro è un luogo, come dire, per antonomasia, dove presentarsi al pubblico e alle persone. Pensiamo soltanto che l'anno scorso in soltanto 4 giorni in generale il fatturato globale del salone è, come dire, anche gli introiti che sono arrivati dal ristorazione, trasporti, eccetera, eccetera, è quasi 28 milioni di euro. Quindi, insomma, sostanziale, diciamo. Cifre grosse, no? Cioè, tante persone che passano e quindi alla fine, perché no, una bella esperienza anche andare a guardare quelli più piccoli. Certo, no? Ma infatti a noi piacciono quelli più piccoli, che sono anche più veloci, che sono quelli smart, che magari non conosce nessuno, ma noi siamo anche qui, insomma, per raccontare queste storie, come raccontiamo la storia di Luca Vittori di Alfa Audiobook, che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo una brevissima scheda che racconta un po' la sua storia. Luca Vittori, classe 1965, insieme a Fabio Bezzi, classe 1969, ha fondato meno di 2 anni fa Alfa Audiobook, una casa editrice di audiolibri che si distingue nel panorama italiano. Luca e Fabio si conoscono dalle medie. Uno è tecnico del suono, l'altro un attore. Tutti e due hanno da sempre la passione per i libri e così hanno deciso di unire le due professioni in un sogno comune. Alfa Audiobook nasce quasi per scherzo e oggi produce circa 10 titoli all'anno e in un mercato in crescita del 30-40% le previsioni sono incoraggianti. Ma sono veramente incoraggianti? L'Italia è un paese che ascolta la letteratura o... Sono incoraggianti in termini percentuali, perché il mercato degli audiolibri, nello specifico, è ancora piuttosto piccolo in Italia. Però è in costante crescita, è una crescita importante appunto in termini percentuali, perché parliamo del 30-40% l'anno. Quindi l'incoraggiamento sicuramente c'è. Allora, dici qualcosa di, insomma, di difficile che c'è in questo mondo, cioè mi viene a dire, dici qualcosa di sinistra, sì. Insomma, dai, vediamo un po' di... Intanto siamo ancora alle porte del Salone del Libro, ci deve essere un po' di peperoncino, un po' di... qualcosa che non alla ti va giù. Alla Mourinho. Scaldiamo, dai, alla Mourinho. La vigilia del... Allora, difficoltà ce ne sono tante. Sicuramente la prima legata al mercato che è piccolo e al prodotto audiolibro che è ancora un po' da sdoganare in questo paese, mentre è molto affermato in altri paesi, vabbè, quello di lingua inglese, quello anglosassone, dove è un mercato assolutamente consolidato e molto importante, dove quasi ogni titolo esce contemporaneamente in cartaceo e in audiolibro. In Italia invece stiamo parlando di ancora pochissimi titoli, ma anche se andiamo su mercati linguisticamente più limitati, come potrebbe essere appunto il nostro italiano, e facciamo riferimento a Germania o Francia, la disparità di titoli disponibili è veramente imbarazzante. Parliamo di più di 30.000 in Germania, 20.000 in Francia e forse 1.000 in Italia. Ma in Italia come ve la cavate con gli altri, con i più grandi? Con i più grandi anche lì dobbiamo un attimino faticare a volte, perché troviamo un pochino di difficoltà anche a dialogare con i grandi editori quando si tratta magari di chiedere i diritti per la realizzazione di un libro, di un romanzo o di qualsiasi cosa in audiolibro. C'è ancora un pochino da convincerli. Ma fammi capire, i grandi editori non fanno gli audiolibri di tutti i loro autori, però non li danno neanche i diritti a voi? Per il momento è un po' così. Per il momento è un po' così. Sembra democratico. No, la cosa che mi domandavo però, che forse c'è un vizio di forma, nel senso che di fatto che cos'è l'audiolibro? È un libro letto. Esatto. No? Visto insomma la realtà dei podcast, insomma le persone che vanno in giro con le cuffiette, anche i nuovi dispositivi, lettori MP3, perché nessuno si sta inventando dei racconti brevi letti, cioè dei racconti recitati, originali, studiati per essere letti? Ci sono delle voci splendide in giro di attori di teatro italiani che potrebbero prestarsi a raccontare dei prodotti che nascono per fare quel lavoro lì, per essere ascoltati. Noi in realtà l'abbiamo fatto, perché la collana che abbiamo di racconti, che per il momento sono solo due titoli, è una collana nata con due autori, uno Alessandro Betti di Torino, l'altro Rory Cappelli, che è una giornalista di Repubblica, che sono anche amici tra l'altro, a cui abbiamo chiesto di scrivere qualcosa di specifico per essere fatto in audio, per essere registrato e quindi poi ascoltato, e si sono proprio impegnati in questo senso. E quindi cosa stanno scrivendo? Allora, Rory Cappelli ha scritto una serie, diventerà una serie di bellissimi racconti, il titolo è Mi manda Somerset, il cui personaggio principale è un'investigatrice privata, è un personaggio un po' particolare, molto bella ma anche molto grassa, è un'agenzia di investigazione, appunto, di questioni private, che si occupa di casi di abusi sulle donne, però il tutto è raccontato in maniera molto divertente, molto leggera, quindi c'è questo contrasto tra l'argomento importante e la durata. Quanto è? Perché qual è la durata giusta? A me poi interessa il format, buttiamo l'idea, metti che qualcuno ci viene dietro, no? Sì, perché no? Allora, la durata dipende dal tipo di supporto che si decide di fare, perché il formato CD audio, vabbè, tecnicamente il Red Book, che è quello del CD musicale per intenderci, ti consente al massimo un 80 minuti a CD, chiaro, si possono poi fare i cofanetti con più CD. Se no bisogna andare sul CD, però in MP3, dove le durate chiaramente... Ecco, ma non so, una storia da 5 minuti ha senso? Nel caso delle fiabe ne abbiamo fatte anche di più corte. Tu che ne pensi? A me piacerebbe a un certo punto comprare magari un iPod che all'interno avesse già un sacco di racconti, un po' di musica, delle suonerie che mi piacessero, oppure le chiavette USB, come hanno fatto Eros Ramazzotti 2 anni fa, no? Compravi la chiavetta USB invece di comprare il disco di Eros Ramazzotti. Ecco, così io mi compro una bella chiavetta USB e trovo dentro magari mezze poesie, mezza letteratura, cioè qualche cosa che, non so, mi accompagna per andare al lavoro, mi accompagna per 5-10 minuti, bah, insomma. Assolutamente sì, lo scopo è quello. Il caso della chiavetta l'abbiamo indagato e è un po' che ci pensiamo, lì diventa veramente un problema di costi. Ma voi dovete farla pagare ai signori della tecnologia queste cose, sì. Signori, per arricchire il loro prodotto. Poi i signori della tecnologia aspettano altro. Nova Lab 24. Allora, noi avevamo in scaletta Fabio Bonifacci, sceneggiatore, ci scrive oggi Cristina, scrive oggi un pezzo Cristina Tagliabue su Nova 24, ma non lo riusciamo a trovare, per cui l'appello è: se ci sei, chiama in trasmissione. Lo sceneggiatore di un sacco di film che ci sono piaciuti, diciamolo, no? Ma il pretesto questa volta, diciamo i film. Dai, diciamo i film. Allora, Oggi sposi, no, va bene, non mi sposa Tremolada, ok. No. Diverso Andiamo da chi si può fare Amore, bugie e calcetto, oppure Ravanello pallido, ecco. Tandem e Allora Mambo, insomma, per gli appassionati di film ironici in stile Woody Allen. Esatto, è proprio uno sceneggiatore cult. Il tema di Woody Allen è abbastanza indicato, perché sul suo sito, che è www.bonifacci.it, scrivila ancora Sam, è il titolo di un corso di scrittura completamente gratuito e mi dicono molto bello. Sì, in realtà Fabio ha appena cominciato, sono 2 mesi che su internet diciamo scrive quotidianamente consigli per diventare scrittori, e le prime 4 lezioni sono gratis su internet, poi bisogna semplicemente iscriversi al sito e lui continuerà per i prossimi, si dice almeno 2 anni, a insegnare, ma davvero, nel senso dando degli strumenti reali, ci sono anche gli esercizi su internet per provare a scrivere, lui corregge i compiti e questo lo fa gratis. Perché? Perché lui dice: è la mia grande trasgressione in un mondo in cui in realtà tutti non fanno niente se non per ovviamente introiti personali, io questa cosa, visto che sono diventato un sceneggiatore tra virgolette di successo, la voglio regalare. Mi sembra una cosa buona e giusta. Peraltro noi, a proposito di scuole o persone che insegnano a scrivere, siamo in collegamento con la scuola Holden e in particolare abbiamo al telefono Lea Iandiorio, il direttore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, voi vi siete inventati la figura del... personal shopper. Che cos'è? A me piace un sacco, io posso dirlo, mi piace un sacco questa cosa. Ma abbiamo pensato che nella confusione del salone del libro le persone avessero bisogno di una guida. Allora, come nelle grandi, insomma, come esistono i personal shopper per i vestiti o per le scarpe o quant'altro, abbiamo pensato che magari era utile anche un personal shopper per la cultura. E qual era il luogo più adatto per provarlo? Il salone del libro, dove hai tutte le case editrici, tutti i libri e una gran confusione nella testa. Quindi abbiamo deciso di mettere alla prova i nostri studenti e di aiutare le persone aiutando appunto a portarli in giro e a comprare libri. Ecco, mi scusi, ma come funziona? Cioè, io dico allo studente quali sono i miei gusti in termini di libri e lui mi consiglia il percorso da fare all'interno del salone? No, più che altro abbiamo pensato che lo studente accompagna le persone nei luoghi, cioè la persona si avvicina, chiede magari appunto, cioè a me piace, non so, mi piacciono i gialli con un personaggio. Magari uno dice: io sono comunista, mi piacciono i gialli, ecco, e voglio libri che grondino di sangue, voi tac, lo portate dove? Da San Trovellazzi. Esatto, ecco, adesso questo dipende dalle persone, io lo porterei, non lo so, magari lo porterei da Sellerio, adesso dico una cosa così. Ecco. No, però voglio dire, ognuno poi avrà il suo bagaglio di conoscenze, anche di gusti, e aiuterà le persone, come le persone, voglio dire, i personal shopper che aiutano le persone a vestirsi comunque ai propri gusti e in base a quella persona scegliere le cose più adatte per quella persona. Ma poi che cosa fate? Raccogliete tutti gli input che vi arrivano e scrivete un libro? Perché poi sai, no, cioè, arrivano le persone, ti dico io voglio libri per vampiri. 40.000 libri sui vampiri, li odiamo, ci escono fuori dalle orecchie, no? Ma sì, no, in realtà se sarà curioso chiederemo ai ragazzi sicuramente di mantenere una sorta di diario delle domande in un qualche modo, però non abbiamo deciso, cioè non è che abbiamo un'idea per sviluppare poi questo progetto, si tratta veramente semplicemente di offrire al salone un servizio al tempo stesso in un qualche modo anche far conoscere i nostri ragazzi, quindi è un servizio che vogliamo dare e vediamo cosa esce fuori, magari escono fuori delle cose interessanti, si capisce il gusto delle persone, magari capiamo che in realtà appunto non vogliono vampiri ma vogliono libri per ragazzi e magari faremo qualche corso in più di come si scrive una fiaba. Ma sarei molto curiosa di sapere in effetti quali sono gli stand più visitati del Salone del Libro, peraltro ricordiamo che comincia giovedì prossimo, che il tema quest'anno trattato è la memoria. No? Che non ha a che fare con i microchip, ma anche in realtà perché tradizione e innovazione vengono affrontate simultaneamente. Il paese ospite di quest'anno è l'India, tanto che arriverà Salman Rushdie. Ma l'hai troncata così, rimarrà Samuel Ras, così, l'hai lasciata così. Bello! So. No, una cosa, l'idea che ci è venuta di mini racconti solo da ascoltare? Ecco, infatti ascoltavo con molto interesse questo intervento di prima, perché sono ottimi spunti anche per noi, diciamo. In effetti anche noi ci stavamo pensando a tutto questo aspetto dei nuovi appunto luoghi, mezzi, strumenti dove dai, facciamoci venire un'idea. Tra l'altro segnalo che Mirko ci scrive ogni mese, i testimoni di Geova rendono disponibili le loro riviste in MP3. Ecco. Sono furbi? Mazza, sono avanti. Sono avanti. Chissà Scientology. Allora, comunque, insomma, dai, proviamo a lavorarci, insomma. Adesso vi facciamo scambiare i numeri di telefono, infatti, così vi parlate. E infatti volevo proprio chiederlo, perché sono degli spunti interessanti, anche noi stiamo lavorando in quel senso, stiamo pensando delle nuove cose, quindi potrebbe essere bello, bella anche l'idea dello sceneggiatore di prima, di cui parlavate, un'idea molto bella, adesso andrò subito a vedere il sito per curiosità. Va bene, io la ringrazio Gian Diorio, ringrazio anche il nostro ospite Luca Vittori, ringrazio anche Fabio Bonifaci, anche se non è, anche se non è presente, naturalmente Cristina Tagliabue, l'appuntamento è per domani alle 16.30. Ciao! Nova Lab 24. Nova Lab 24.